www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'incubo della macellazione è sempre in agguato, Kappa e Drago parlano di temperatura. Uffa Kappa, ma che caldo fa? Sento come una lumaca disidratata, la pelle secca, le fauci asciutte. Ah, che bello spettacolo. Lo sappiamo, Drago, qui ci sono sempre 38 gradi, esatto. Temperatura costante, estate, inverno, sempre 38 gradi. Questa qui si chiama entropia, Kappa, sì. Entropia. Thomas Pynchon, Rudolf Clausius, quelle robe lì, no? Lascia stare, Drago, la termodinamica, perché? Non è il tuo forte la termodinamica. Goditi invece la tropicale sensazione di vivere a 38 gradi costanti. Feel the tropical breeze, Drago. Feel the tropical breeze. Feel the tropical breeze, Drago. Feel the tropical breeze. Ma che tropical breeze? Qui è come avere sempre la febbre. Come Büchner. Come chi? Georg Büchner, drammaturgo tedesco, nacque vicino di Darmstadt in Germania in anno 1813. Scrisse Wolzeck, Lenz, Dantons Tod e Leonce und Lena. E a soli 24 anni morì a causa di tifo. Tifo non sportivo, non di stadio, lui non andava mai di stadio. Lui aveva tifo di malattia, lui aveva febbre tifoidea. Tutti i giorni, tutto il giorno, febbre. È per questo che scriveva queste opere pre-espressioniste 100 anni prima di Expressionismo. E vabbè, Kappa, adesso ho imparato che Büchner non andava mai allo stadio a vedere il Darmstadt 98, e che aveva sempre la febbre. Però questo cosa c'entra con la fabbrica di polli? C'entra, perché sia Büchner sia la fabbrica di polli hanno sempre una temperatura interna di 38 gradi. E quindi? E quindi, Drago, posso affermare quasi scientificamente che la fabbrica di polli è Büchner. Ma Kappa, cosa vuol dire che la fabbrica di polli è Büchner? Che noi siamo dei microorganismi all'interno di Büchner? Forse, chissà. Boh, però dai, tutto sommato che cosa cambia nelle nostre vite se la fabbrica fosse davvero Büchner? Cambia, che adesso sappiamo che si può morire a 24 anni all'inizio dell'Ottocento e poi ricomparire quasi 200 anni dopo sotto forma di complesso industriale per la macellazione di polli. Questo è vero, sì. Ah, e quindi questa voce che parla sempre in tedesco è la voce di Büchner? Può darsi. Poi Büchner ha sempre amato mettere in scena marionette meccaniche, quindi... Nel 1830? Sì, aveva la fissa per gli autoni. Ma bisogna capirlo, Drago, aveva sempre la febbre. E quindi Lineare Verstärkung potrebbe essere un estratto dalle opere di Büchner. Vabbè, ma secondo te amplificazione lineare è un'espressione che poteva stare in un dramma di inizio Ottocento? Ma sì, Drago, era Büchner. Aveva sempre la febbre pre-espressionista. Pre-expressionist fever. La fabbrica dei polli. Uè, Pollastri, Non è che conoscete qualcuno all'ufficio visti, per caso? Pollo in sbattimento, così agitato. No, non conosco nessuno. Cosa come c'è? No? Allora, io qui devo far entrare quattro coccoletti brasiliani, no? Questi sono dei musicisti e devono fare un concerto qua dentro. Ah, sì, un concerto, vero? Sì, attenzione. Però questi sono extracomunitari. Quindi è un casino, no? Ma no, ma come? Però è strano, scusa. Tu i cocoriti non hai mai potuto nemmeno vederli. E adesso ne aiuti quattro a entrare in fabbrica. Com'è sta storia? Vabbè, questo è lavoro, eh. Quando si tratta di lavoro, io non mi faccio mica domande. Ah, beh, no, lui sì. Allora, mi hanno detto di far entrare i cocoriti e io li faccio entrare. E poi magari quando entrano, li riempio di beccate. E però intanto li faccio entrare. Ma così, ma scusa, ma fanno un concerto qui nella fabbrica? Sì, però devo farli entrare prima. Sì, no? Ma ti hanno capito che devi farli entrare. Ho capito, ma io sono in sbattimento, no? Per ma questo. Scusa, ma vabbè, ma non sarà impossibile, no? D'accordo, c'è una sfilza di documenti da fare. Ci sarà da aspettare la risposta delle autorità. Ci sarà da pagare, ok? Ma prima o poi riusciranno a entrare, quindi stai calmo. Ma no! Ma come ma no? No! Perché allora, per avere il visto, devi avere il nulla osta. E solo che per avere il nulla osta devi avere il visto Ma come? Eh sì, guarda che pieno di cose così, c'è qua tutta la profilassi. La profilassi? Ma devi mica curarti, ma cosa stai dicendo, Pollo? C'hai l'elenco dei documenti da preparare, la profilassi, Non si capisce niente, Io vado in sbattimento. Vabbè, ti vedo. Non è che magari conoscete anche una gallina? Anche di quarta categoria che lavora nell'ufficio visti? No, io ne conosco tante galline di quarta categoria, però nessuna all'ufficio visti. No, io solo galline di primissima categoria. Vabbè, e allora vado in questura e aspetto lì. Sì, che devi. Ma sarà pienissima! Ma è possibile che mi danno sempre dei lavori in cui devo stare in mezzo alla gente? Vabbè, ma cosa devi fare? Vabbè, lavoro è lavoro, eh. Vabbè, questo mi fa andare pazzo, Beh, ma insomma. No, pazzo! Mi fa andare pazzo! Pazzo! Pazzo! Andare pazzo, sì, andare pazzo dall'inglese. Pazzo! Sono pazzo! Sai che chicken. Accidenti. Cosa c'è adesso? Ho rotto il computer. No, ma da quando sono qui in fabbrica non riesco più a controllare la posta elettronica con la giusta regolarità. E quindi avrai la casella piena, è il solito problema che ti ritorna indietro. Sì, però quello che è peggio è che se provo a rispondere a qualche messaggio, due volte su tre mi torna indietro. Perché ormai quegli indirizzi non sono più validi, vedi? Esatto. Mail delivery service, mailer demon. Mailer demon, è una grandissima menata. Tu scrivi la mail della tua vita, la ricontrolli, la ricorreggi. Sei sicuro che è perfetta? Controlli l'indirizzo, è giusto, clicchi su invia, il messaggio parte e dopo due secondi arriva lui. Mailer Demon. Oh no, la mail mi è tornata indietro. Non solo la mail ti è tornata indietro. Ma tu chi sei? Hai anche incontrato sulla tua strada Mailer Demon! Mailer Demon! Sei tu in persona! Sì, e preparati a ricevere le mie visite con grande regolarità! No, ma perché? Le caselle dei destinatari dei tuoi messaggi saranno sempre piene! No! Le tue mail conterranno sempre un errore nell'indirizzo! E invece sì, e sai perché? Perché? Perché sono Mailer Demon! Che cosa succederà adesso? Mailer Demon continuerà a infestare la vita nella fabbrica o è solo una presenza di passaggio che non incontreremo mai più? Sì, ti piacerebbe! Se volete saperlo, non dovete far altro che sintonizzarvi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo incalcolabile allestimento de... La fabbrica di Polli produce, non chiude mai. La fabbrica di Polli produce, non muore quasi. K e Drago, prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com.